vostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno e buon inizio settimana, caro Mauro. Oh, buongiorno, cara Deborah, altrettanto anche a te e anche ai nostri ascoltatori. Vedo che sei arrivato con il documento che tanto attendevi, finalmente. Sì, guarda, finalmente ho potuto leggere, anzi ho cominciato ora a leggere il disegno di legge di bilancio. Mi mancava questa cosa. Sì, perché lo abbiamo ricercato ovunque. Ma sì, poi come ti avevo detto, una cosa che è stata comunque decisa il 15 di ottobre, poi si riesce a leggere soltanto il giorno 30... Vabbè, come dicevamo, appunto, è come aver ricevuto il compito di matematica il lunedì e consegnarlo poi il giovedì con comodo. Vabbè, ecco. Adesso ce l'abbiamo, ci sono tante notizie interessanti e soprattutto, come ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, tanti temi interessanti per noi, per Due di Denari, per cui non appena avremo la manovra definitiva, puntate come se non ci fosse un domani sugli argomenti trattati appunto dalla manovra di bilancio, soprattutto quelli che interessano i soldi dei nostri ascoltatori. Certamente. Senti, c'è questa cosa della fatturazione a 28 giorni che dobbiamo scusa segnalare. Se ridacchio, però no, effettivamente c'è una novità importante, perché appunto c'è stata un'intervista al Corriere della Sera in cui l'amministratore delegato di Vodafone ha detto: scusateci, torneremo alla fatturazione mensile e non più a 28 giorni, abbiamo peccato per poca trasparenza. E quindi insomma un cambiamento importante, ne abbiamo parlato più volte qui a Due di Denari, abbiamo anche ospitato appunto le lamentele delle associazioni consumatori che appunto reclamavano per questa modifica unilaterale consentita, per carità, sono contratti di natura privata, però d'altra parte insomma c'era stato un po' una sorta di accordo tra tutte le società gestori di telefonia, perché su questo punto poi bisogna dire che siamo stati imprecisi. Sono stata richiamata da una grande azienda di distribuzione di fornitura elettrica, una discretamente grande, che mi ha detto: no, ma fai attenzione, insomma, che le bollette dell'energia e della luce vengono distribuite, vengono fatte recapitare appunto agli utenti nella modalità non dei 28 giorni, ma sono bimestrali, no? Quindi, sì, esattamente. Tra l'altro, se avete dubbi, oggi proprio con il Sole 24 Ore nell'Esperto Risponde parliamo di bollette del gas e della luce, come reclamare se avete dei contenziosi in corso, se nel passaggio al mercato libero, venendo dal mercato di maggior tutela, non vi siete ritrovati gli sconti che aspettavate. Ne parliamo proprio oggi. Doverosa la precisazione, siamo stati un pochino superficiali, parlavamo invece le bollette a 28 giorni. Benissimo. Della telefonia, in qualche caso, perdonate, anche per le pay TV, cioè forniture di contenuti televisivi a pagamento. Velocemente il sommario di oggi. Oggi parliamo di educazione finanziaria, perché ormai è partito ufficialmente il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria in Italia. Noi, per chi ci sta seguendo su Facebook e sta a modo di vedere che lo studio oggi è particolarmente affollato, abbiamo il piacere di avere con noi Anna Maria Lusardi, che lo dirige. Le è stato chiesto appunto di assumersi questi impegno dal Ministero dell'Economia. Intanto noi la salutiamo subito, anche se la chiacchierata con lei la cominceremo tra un po'. Benvenuta e grazie. Grazie Deborah, grazie Mauro, sono molto felice di essere qui. Insieme alla professoressa Lusardi, in studio con noi c'è anche Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti antiriciclaggio di Banca d'Italia. Buongiorno. Buongiorno, un piacere perché anche per me. Anche Banca d'Italia è particolarmente attiva, soprattutto con il censimento delle iniziative di educazione finanziaria in Italia, per cui tra pochissimo su questo tema, che in questo momento è centrale nel dibattito italiano. Se volete intervenire e dirci la vostra, avete sempre l'opportunità di farlo al consueto numero verde, Mauro, certo, che ormai hanno 80024, inciso come sulla pietra 0024 per intervenire in diretta, parlare di alfabetizzazione finanziaria o educazione finanziaria. Questa è la settimana del risparmio, quindi bravo, ne parleremo in lungo e in largo, e come sapete ce n'è bisogno, perché noi italiani siamo abbastanza impreparati. Io uso il siamo volentieri, perché mi metto proprio nel novero dei meno preparati. Se ci facciamo un piccolo check up, qualcuno di noi, tutti quanti scopriamo una lacuna. Facciamo dare un voto ai nostri ascoltatori, che dici? Magari possono così farsi un piccolo esame di coscienza in questo momento. Diteci quanto vi sentite preparati, datevi un voto da insufficiente a ottimo, un po' come alle elementari, ecco, scusate, scuola primaria adesso si chiamano. Esatto. Insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. Facciamo anche un sondaggio su Twitter, @2didenari, il 2 è scritto a numero questa volta. Mentre se volete mandarci SMS, WhatsApp, il numero è sempre il solito 349-238-6666. Adesso andiamo a dare un'occhiata alla settimana finanziaria. Volentieri. Meteo Borsa. Allora, la settimana parte abbastanza bene per Milano, che è in rialzo già dello 0,46%, un po' più prudenti Parigi e Francoforte. Parte invece piuttosto bene la settimana per la borsa spagnola, che come sapete bene è sotto i riflettori da diverse settimane, e ricordiamo che le ultime novità nel duro braccio di ferro che contrappone il governo centrale di Madrid con la Catalogna, ha avuto una novità proprio del weekend. Il governo centrale ha deciso di togliere l'autonomia alla Catalogna, e questo si riflette in questa maniera sui mercati finanziari. Ma non ci sono solo questi argomenti, per tutti gli altri interpelliamo stamattina Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea SGR, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, il netto rialzo della Borsa di Madrid, partiamo da qui. In realtà noi ci soffermiamo spesso e volentieri, Brasca, solo sull'andamento del mercato azionario in risposta a determinati fatti politici. Forse, come dire, il test più importante da tenere sotto controllo è quello sul mercato obbligazionario. Stamattina come si apre la situazione in Europa? Sì, la situazione in Europa si apre bene stamane anche sulla parte obbligazionaria, perché poi alla fine il pubblico, il grande pubblico, è più sensibile alla parte obbligazionaria, al grosso degli investimenti, soprattutto degli italiani, è sul mercato obbligazionario. La Spagna va molto bene stamattina, perché lo spread, cioè il differenziale di tasso di interesse rispetto all'obbligazione corrispondente tedesca, si restringe anche l'Italia, ma la Spagna si restringe più che proporzionalmente, quindi la partenza di oggi della Spagna è molto buona, anche in risposta insomma alle incertezze invece di venerdì, perché venerdì a caldo il mercato azionario stavolta, mentre quello obbligazionario era fermo, il mercato azionario aveva corretto. Tra l'altro abbiamo anche dei buoni dati macro stamattina dalla Spagna, ma direi che forse è il caso di andare subito alla situazione italiana, perché Mauro, venerdì è stata una novità importante. Dopo diversi anni in cui non succedeva, finalmente un'agenzia di rating ci ha in qualche modo promosso. Non siamo diventati i primi della classe ancora, mi sembra di capire, dottor Brasca, però insomma un segnale importante, soprattutto perché veniva da una serie di declassamenti, quindi questo dovrebbe far ben sperare anche per quanto riguarda l'andamento dei mercati e il debito, che appunto con l'avvio di questa riduzione molto blanda, ma comunque sempre riduzione da parte della Banca Centrale Europea del quantitative easing, insomma qualche preoccupazione è lecito averla. Sì, la strada per diventare i primi della classe è parecchio lunga, però anche a me ha fatto molto molto piacere leggere che Standard & Poor's ha migliorato il rating dell'Italia, perché vuol dire che questo decennio, poco più che un decennio di difficoltà, sembra aver trovato un punto di svolta, e speriamo che le riforme continuino e la crescita ci aiuti, perché è tanto più importante per l'Italia la crescita quanto più il nostro paese è affetto da questo debito pubblico endemico, che in qualche modo condiziona tante scelte sia economiche che politiche. La Banca Centrale ci ha aiutati molto, ovviamente, perché il quantitative easing, tenendo bassi i tassi di interesse, ci ha dato grande sollievo su quello che si chiama il servizio del debito, cioè su quella spesa pubblica destinata a pagare gli interessi sulle obbligazioni di Stato, e questo ha aiutato molto nel recupero del rapporto debito-PIL, soprattutto prospettico. Certo, bisogna non illudersi troppo, perché intanto è un compito difficile, e quindi questo non deve far mancare questo risultato positivo di miglioramento, deve incoraggiare ma non far mancare lo stimolo all'impegno. E dall'altro canto dobbiamo sempre ricordare che i mercati finanziari scontano in anticipo le notizie, quindi oggi i mercati finanziari nel 2017 si sono mossi in modo positivo scontando un miglioramento. Questo miglioramento sostanzialmente si può pensare che sia nei prezzi. Brasca, prima di salutarla, un piccolo focus sugli Stati Uniti, perché ancora quello che succede oltreoceano merita attenzione. Venerdì abbiamo avuto una nuova seduta record, in particolar modo per due indici, per lo Standard & Poor's 500 e per il Nasdaq Composito. La tecnologia è letteralmente volata ancora una volta grazie alle trimestrali che sono risultate tutte superiori alle stime, quindi abbiamo avuto Amazon che ha avuto una crescita del 13%, Microsoft più 6,5 punti, Alphabet, quindi Google più 4,3, Intel ha toccato i massimi da 17 anni a questa parte. Tutto questo in uno scenario in cui questa settimana torna a riunirsi la Banca Centrale Americana, anche se non è la riunione decisiva per il nuovo aumento dei tassi di interesse che si effettuerà il mese prossimo. Vogliamo fare un'analisi che combini i due elementi? In effetti la tecnologia ha fatto da traino a questa fase di crescita del mercato azionario americano e anche alla crescita economica americana. Del resto è un concetto abbastanza naturale che in un'economia matura come quella americana, ma anche quella europea, chi possa generare la crescita sono le società che più sono all'avanguardia sul comparto dell'innovazione, e l'innovazione che fa aprire i portafogli ai consumatori che tutto sommato hanno un livello di benessere piuttosto elevato. Quindi questa innovazione, che fa anche sì che gli analisti possano avere dei flussi di reddito futuro abbastanza visibili, abbastanza chiari da mettere in fila, è quella che meglio reagisce a un contesto di tassi di interesse particolarmente bassi. Quindi quella che è la questione a venire è: ci sarà un'inversione di tendenza, sempre ammesso che le banche centrali saranno molto caute, perché nessuno vuol far crollare i mercati obbligazionari, sarebbe una cosa drammatica, e penso nessun banchiere centrale, indipendentemente dalle scelte che verranno fatte, potrà solo minimamente pensare di fare una cosa del genere, ma i tassi staranno abbastanza bassi per consentire a queste società tecnologiche di continuare a avere questa sovraperformance, o a un bel momento il fattore di sconto che ha dato da questi tassi ne fermerà la corsa. Questo è un grosso punto interrogativo. Lo scopriremo solo vivendo. Grazie Roberto Brasca, devo salutarla perché è tardissimo. Intanto buona giornata, presto. Grazie a voi. Volevo solo segnalare sui titoli di Piazza Affari che c'è Ferrari che ha superato i 100 euro, Mauro, così. Meno male che almeno in borsa ci viene qualche soddisfazione. Ieri purtroppo non è stato un gran premio fortunato. Complimenti a Lewis Hamilton soprattutto, neocampione del mondo per la quarta volta. Lasciamo lo sport, andiamo al nostro tema di oggi. Vabbè, sai che la colonna sonora è sempre rock per i nostri temi finanziari. No, allora, ma io adoro i Pink Floyd, però qui bisognerebbe cambiare il verso, perché we do need education, qui abbiamo bisogno di educazione finanziaria. Io mi do un voto, guarda, voglio partecipare a questo sondaggio. Io mi do, diciamo, tra il 5 e il 6, tra l'insufficiente e l'insufficiente. Sai, quegli studenti che potrebbero anche fare di più, esatto, però vabbè siamo anche al primo quadrimestre ancora, primo quadrimestre, quindi c'hai tutto il tempo per recuperare. Vediamo se dopo questa lezione di stamattina potremo darti un voto migliore, almeno la sufficienza per passare bene le vacanze di Natale. Allora, oggi parliamo dell'attività del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, perché è nato ufficialmente, l'abbiamo raccontato tante volte nei nostri programmi, grazie ad un provvedimento legislativo che in alcune occasioni anche un po' inciampato, però per il proprio in corner, in calcio d'angolo, è arrivato alla fine dell'anno scorso, alla fine di dicembre appunto, e adesso sembra aver trovato la sua strada e anzi marcia spedito questo comitato nazionale. È un comitato in cui c'è una rappresentanza delle istituzioni italiane, ed è un comitato che ha il compito di programmare, coordinare le attività di educazione finanziaria e promuovere anche tutte quelle iniziative di sensibilizzazione che possono avere l'obiettivo di misurare, di migliorare le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza e assicurazione. L'abbiamo ricordato molte volte, a coordinare e dirigere questo comitato è stata chiamata Anna Maria Lusardi, italiana trapiantata negli Stati Uniti da molti anni, dove ha acquisito la massima esperienza e conoscenza su questa materia, quindi era probabilmente naturale che il Ministero dell'Economia la chiamasse ad assumersi questo compito. Professoressa Lusardi, di nuovo benvenuta, eccoci qua finalmente. Allora. Grazie mille, sono molto felice di essere qui, sono particolarmente felice poi di essere il direttore di questo comitato di educazione finanziaria e siamo già partiti, stiamo già lavorando assiduamente e grazie di averci dedicato questa trasmissione oggi. Ma sì, ci fa piacere segnalare agli ascoltatori che in Italia si fa molto, sicuramente in passato si poteva fare di più, però insomma non è mai tardi per recuperare il tempo perduto. Peraltro la professoressa Lusardi insieme a Magda Bianco, Mauro, stasera sono ad un convegno qui a Milano organizzato dalla Global Thinking Foundation. Sì, ed è un convegno in tre sessioni, si parla di gig economy, ma se non sapete cosa vuol dire ve lo spieghiamo. È questa economia che potremmo mal tradurre dei lavoretti, ma vuol dire anche un po' questo darsi il lavoro da soli su piccoli lavori saltuari, non so, fare l'autista per Uber piuttosto che fare le consegne per qualcuno di questi Foodora o altri che fanno questi lavori. E allora si parlerà di questo, il keynote speech tra l'altro sarà di Alan Krueger, che è stato presidente del Consiglio dei Consulenti Economici sotto la presidenza Obama, quindi professore di economia a Princeton e quant'altro, quindi un appuntamento importante dove appunto la professoressa Anna Maria Lusardi avrà una sessione in cui parlerete, manco a dirlo, di alfabetizzazione finanziaria. E infatti facciamo il punto della situazione, partiamo immediatamente con un bilancio rispetto a quello che è stato fatto fino a questo momento. Come sta andando l'Italia, professoressa Lusardi, per quanto riguarda la conoscenza finanziaria? Le indagini continuano a descriverci veramente come più arretrati in questo senso in tutta Europa e forse nel mondo, ma lei ha trovato veramente un terreno su cui c'è così tanto lavoro da fare? Voglio partire da queste indagini che abbiamo fatto e che mettono l'Italia un po' nel contesto internazionale, ad esempio citare questa ultima indagine, quella di Allianz, dove si sono guardati sia alla conoscenza finanziaria dei concetti di base, ma poi di un concetto particolarmente importante se parliamo di risparmio e investimento, che è la conoscenza del rischio, concetti come la relazione rendimento-rischio e la diversificazione del rischio. Ecco, in questa analisi, dove tra l'altro si guardano a 10 paesi, l'Italia ne esce un po' come, diciamo, il fanalino di coda, quindi è uno dei paesi dove la conoscenza è molto bassa, in particolare la conoscenza del rischio e concetti collegati al rischio, confermando un po' anche altri studi internazionali. Tra l'altro un'indagine era stata finanziata da Standard & Poor's e aveva guardato la conoscenza nel mondo, e in quel caso l'Italia si classifica, direi, piuttosto male: soltanto il 37% degli italiani ha questa conoscenza di base. E voglio poi segnalare i dati PISA, quindi il Program for International Student Assessment, che guarda ai giovani. Perché è importante guardare ai giovani? Perché sono le generazioni future. E voglio segnalare due risultati. Uno, il primo, del 2012, dove l'Italia è un po' il fanalino di coda, quindi è seconda e penultima, diciamo, solo alla Colombia. Però nel 2015 si vedono dei cambiamenti, l'Italia sta facendo meglio, ed è un po' questo il messaggio che voglio dare alla fine, che la conoscenza finanziaria è un tema importante, un tema urgente, ma far meglio, migliorare, si può. Infatti in Italia si è fatto tanto, Mauro, tu lo ricorderai, io ho raccontato anche spesso da questi microfoni del famoso censimento che la Banca d'Italia ha condotto quasi un anno fa, in cui ha potuto monitorare l'esistenza di oltre 200 iniziative di vario tipo in tutto il territorio nazionale, e però insomma le persone è importante che sappiano che queste cose ci sono, che queste cose si fanno, e soprattutto poi il tema è misurare un po' i risultati di tutto questo. Quindi con la dottoressa Magda Bianco di Banca d'Italia, che si è incaricata di coordinare questa attività di censimento, magari possiamo fare un punto della situazione rispetto a questo. Insomma, quali, ricordiamolo magari, quali erano le iniziative più interessanti che avevate riscontrato, le più grandi, le più meritevoli appunto di attenzione? Allora, il censimento che abbiamo condotto insieme ad altre istituzioni e a soggetti no profit oltre un anno fa vedeva sul mercato oltre 250 iniziative. Devo dire che siamo certi che se le riguardassimo oggi, poi dirò qualche cosa su questo, ne troveremmo molte di più, perché abbiamo proprio l'impressione che stanno crescendo le iniziative. erano molte iniziative, diciamo così, un po' leggere, più di sensibilizzazione, altre iniziative invece più strutturate, quindi rivolte a costruire proprio dei programmi con una presenza più costante. Però quello che vedevamo è che oltre circa 2/3 di queste raggiungevano nell'arco di 3 anni meno di 1000 persone. Questo non vuol dire che iniziative piccole non si debbano fare o non siano di qualità, ma l'impressione che si facesse, e forse anche oggi si faccia poco sistema, e quindi i risultati tardano a venire. Appunto, ci sono tante iniziative, sono frammentate, sono poco coordinate. Ecco, noi oggi vorremmo, e lo faremo con il comitato, rifare un censimento delle iniziative, proprio perché ci aspettiamo che in questi 2 anni sia successo molto, e perché il passaggio che vorremmo fare è poi metterle a disposizione, restituire al mercato quello che si sta facendo, perché lo sappiano e si confrontino innanzitutto quelli che fanno le iniziative, quelli che le realizzano, ma anche gli utenti sappiano dove trovare delle possibilità, delle iniziative interessanti. Quello che avevamo visto in quel censimento erano appunto alcune iniziative di grande dimensione, realizzate o dalle istituzioni, noi stessi siamo dei fornitori, tra virgolette, di iniziative di educazione finanziaria, soprattutto nelle scuole, ci sono grandi banche, ci sono associazioni di categoria, degli intermediari, delle assicurazioni, dei consulenti. La nostra impressione è che ci siano diverse iniziative di buona qualità, ma il vero problema è capire quanto di buona qualità siano, perché nessuna o pochissime di queste iniziative misura l'impatto di questi programmi, e quindi in realtà non sappiamo se anche iniziative che appaiono dotarsi di buoni materiali o di raggiungere tante persone poi lasciano un impatto sui soggetti, cioè, a cui sono destinate. Insomma, le cose ci vengono anche spiegate, però non sappiamo quanta efficacia riescano a raggiungere. Ci dobbiamo fermare per qualche istante perché abbiamo l'abituale aggiornamento sui mercati. Io invito tutti gli ascoltatori a scriverci, a telefonarci anche durante lo stacco pubblicitario e l'aggiornamento sui mercati. I numeri sono i soliti: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per sms e whatsapp. Avete avuto esperienza di qualcuna di queste iniziative? Raccontatecelo, magari i vostri figli a scuola, oppure voi stessi, o qualche iniziativa di qualche istituto di credito. Molto potrebbe trovarsi in rete e nel mondo fisico. Raccontatecelo se volete. Adesso Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. La parola educazione è al centro del nostro piccolo dibattito di questa mattina di Due Denari, perché parliamo di educazione finanziaria, del grande lavoro che si sta facendo in Italia per implementare le competenze degli italiani, grandi e piccini. E qua un po' tutti ci stanno scrivendo, Mauro, stamattina, sì, molto sensibilizzati sul tema. Sì, c'è qualche ascoltatore si autodichiara anche appena poco più preparato di me, un signore si dà un 6 meno, cioè addirittura con 3 meno, io mi ero dato un 5 al 6. Mm-hmm. Un altro segnalando invece, poi peraltro, che credo sia stato un dirigente nel settore dell'informatica, per cui dopo tanti anni di professione in quel campo, in realtà sul tema dell'educazione finanziaria dice di saper poco. E un altro invece un po' polemicamente dice: ma gli americani del 2008 erano più informati di noi italiani. Qui, prima di chiamare in causa le nostre ospiti, la professoressa Lusardi, la dottoressa Bianco, vorrei dire: non è che essere educati, nel senso essere preparati, riduce i rovesci, magari però attenua gli effetti di questi rovesci, cioè qualche sbaglio può sempre accadere, qualche cosa imprevista può sempre accadere. Essere preparati vuol dire non essersi esposti, ad esempio, tutti all'ansia finanziaria che rileva la Consob, ti ricordi? L'ansia finanziaria, infatti, ma io volevo chiedere alle nostre ospiti innanzitutto una cosa: voi preferite parlare di alfabetizzazione finanziaria e non di educazione finanziaria? Ma che differenza c'è, professoressa Lusardi? Mi piace molto il termine alfabetizzazione finanziaria, e sono piacentina, non riesco a dire la Z, però è un termine che lo stesso mi piace, perché definisce quello di cui stiamo parlando, ovvero i concetti base. Mi piace dire che oggi sì, l'educazione e la conoscenza finanziaria è un po' come il saper leggere e scrivere. No, nel passato non si poteva partecipare alla società senza avere queste conoscenze di base, senza saper leggere e scrivere. E lo stesso è adesso per l'educazione finanziaria, per la conoscenza finanziaria. Non vogliamo trasformare nessuno in esperto, vogliamo soltanto che chiunque abbia un po' questi concetti di base per poter partecipare alla società, per poter costruire il proprio futuro serenamente. Ma quanto ci costa essere, per così dire, ignoranti, non educati finanziariamente, maleducati finanziariamente? Ci costa molto, ed è stato questo il risultato che hanno messo in evidenza, che le crisi hanno dimostrato. Io dico sempre che l'educazione finanziaria non è una risposta alla crisi, è una risposta al mondo che cambia. Ma le crisi ci dicono quanto ci costa non sapere di finanza. E i costi sono non solo economici, e le cifre sono altissime, ma sono anche psicologici. Sono questa tensione, questa preoccupazione, questa ansia finanziaria che le persone provano. È un altro costo, ed è un costo importante da tenere in considerazione. Ed è per questo che l'educazione finanziaria è così importante. Pagano tutti nello stesso modo, professoressa Lusardi, o ci sono dei gruppi, dei soggetti più vulnerabili rispetto ad altri? Grazie di questa domanda, questa è molto importante, far capire che purtroppo i costi sono distribuiti in modo ineguale, ci sono gruppi vulnerabili, e questi gruppi purtroppo sono i gruppi che sono di per sé già vulnerabili, ovvero persone, ad esempio i giovani, ad esempio le donne, ad esempio persone che hanno magari minor reddito e anche minore educazione. Educazione, diciamo, anche come titolo di studio, ed è per questo che l'accesso alla educazione finanziaria è così importante. Dobbiamo renderlo disponibile a tutti, ed è per questo che si deve partire dalla scuola, partire dai luoghi di lavoro, far sì che questi gruppi che sono più deboli possano acquisire a loro volta questi concetti di base. Tutti gli studi dimostrano che purtroppo la conoscenza è concentrata in chi già ha di più, sia a livello finanziario che a livello economico. E è un problema di equità sociale. Quindi no, è una forbice in realtà che si sta allargando, per cui gli informati sono sempre più informati e anche più tutelati in qualche modo, non che non subiscano anche loro i rovesci dei mercati, delle valute, di qualche investimento poco accorto, però sono sicuramente più al sicuro di tutti gli altri, e la distanza tra i due gruppi, se capisco bene il suo discorso, si sta ampliando. La distanza si sta ampliando, per questo che parliamo di gruppi deboli, ed è per questo che noi diciamo che la conoscenza finanziaria è importante, è anche una forma di protezione, ma non per questo la protezione non deve essere fatta, ma è per questo che anche il Comitato ha un occhio particolare, avrà un occhio particolare per questi gruppi più vulnerabili. Crediamo che tutti abbiano bisogno di educazione finanziaria, ma anche di avere questa attenzione per chi ha più difficoltà ad acquisirla. Deborah, ti segnalo due cose dagli sms, sì, e dal nostro sondaggio su Twitter. Allora, sì, il sondaggio per ora vede un quarto dei partecipanti che si dichiara non sufficiente e un 63% invece si dichiara sufficiente. Forse è una stima ottimista, scusate, io mi colloco sicuramente tra gli insufficienti, quindi lo dico con serenità. In realtà, guarda, che molto spesso sappiamo, ma in realtà ci piace dipingerci come quelli che non sanno. Sì, devo dire però le indagini che presentiamo anche qualche volta qui a Due di Denari ci dicono, sì, che poi nelle azioni, nei comportamenti, e qui chiedo la conferma a Magda Bianco, sì, non siamo così avveduti come pensiamo di essere, o non ci dimostriamo così avveduti come dovremmo essere. In gergo anglosassone si chiama overconfidence, no? Avere un po' una sopravvalutazione. Aspetta, però, magari questo me lo devo scrivere, perché poi me lo chiedi. Ma con quelle che porti tu, con quei termini fiscali allucinogeni. No, poi io so che me lo chiedi all'esame questo. Sì, è sicuramente così. C'è un buon grado di overconfidence in una parte della popolazione, ce lo raccontano un po' queste indagini, anche se devo dire che l'indagine che noi abbiamo condotto all'inizio di quest'anno sugli adulti è fatta con la metodologia dell'OCSE, quindi che ci rende confrontabili gli altri paesi, trova, a parte i nostri livelli medio-bassi di conoscenze, competenze, comportamenti, trova un'autovalutazione molto consapevole. Noi troviamo che più del 50% di chi risponde pensa di sapere meno della media, quindi siamo addirittura più consapevoli di quello che in realtà siamo rispetto alla nostra scarsa conoscenza. Io penso che in parte i vostri risultati dipendano dal fatto che molti dei vostri ascoltatori sono già un po' selezionati verso l'alto, quindi sono un po' più motivati, un po' più consapevoli, hanno delle conoscenze e sono comunque interessati a informarsi. Esatto, diciamo che basta una trasmissione radiofonica, come dico sempre io, per accendere un pensiero, e questo già è importante. Allora, due riflessioni di due ascoltatori con profili credo piuttosto diversi. Ho 26 anni, ci scrive un ragazzo, credo che sia un uomo, vorrei migliorare la mia educazione finanziaria, il problema è che non so da dove iniziare, il mio voto è insufficiente. Un altro molto interessante ci scrive: mi piacerebbe proporre iniziative di alfabetizzazione finanziaria anche nel mio comune, magari nelle scuole. Come fare? Dove reperire info utili? Ci chiede Francesco, perché qua andiamo adesso ad affrontare il tema della grande offerta disponibile, no? Che rischia di farci cadere lo stesso in qualche errore, andare magari a interloquire, interfacciarci con una, con un profilo, un soggetto, un'istituzione, un'organizzazione che magari non va bene per noi. Magda Bianco. Questo è sicuramente un problema ed è una delle priorità che ha il Comitato. L'obiettivo di costruire un luogo virtuale nazionale, quindi un portale nazionale, è proprio questo: avere un luogo dove tutti possono cercare prime informazioni, informazioni di base, dei percorsi essenziali, ma anche, come dicevo prima, un elenco delle iniziative che già si svolgono sul territorio con una descrizione di base essenziale per potersi muovere. Quindi un elenco ragionato che serva anche a scegliere per chi, come il nostro ascoltatore, vorrebbe attivare delle iniziative ma non sa bene dove andare a pescare. Assolutamente, quindi descritte per luogo, per tematica, per soggetto che le propone, per le caratteristiche e in futuro speriamo sempre di più anche per valutazione, certo, anche per misurazione. Al momento ci sono naturalmente i siti delle istituzioni dove ci sono una serie di informazioni. Dobbiamo ammettere che a volte i nostri siti sono un po' ingessati, per cui non è facilissimo, non sono così amichevoli come noi speriamo sarà invece il portale nazionale per l'educazione finanziaria, però alcune informazioni già su quei siti si trovano, quindi informazioni o di base oppure informazioni per tutelarsi, per difendersi e sapere quali sono i propri diritti, che è un altro pezzo importante dell'alfabetizzazione finanziaria. Allora, voi sapete, un altro ancora è quello del linguaggio, naturalmente. Bisogna far capire bene le cose di cui si parla. Noi ci proviamo dalla radio e tante volte per rendere digeribili certi argomenti noi le proviamo tutte, lo dico ad Anna Maria Lusardi, a Magda Bianco, persino la poesia. Noi il lunedì abbiamo un angolo che è molto apprezzato dai nostri ascoltatori, che è quello del sonetto. E siccome il nostro autore è Mauro Meazza, come gli ascoltatori ben sanno, oggi ha voluto rendere omaggio a questo gruppo di donne così interessanti, quindi mi aspetto molto dalla tua prestazione di oggi, caro Mauro. Tre donne intorno a me son convenute stamane per mostrar la retta via che agli risparmi porta onne salute, colmando i vuoti all'insipienza mia. Vedrai che troveran paracadute con Debora, con Magda e Anna Maria li dubbi tuoi su borse e su valute, e questa è competenza e non magia. Color che ascolta me mettere in verso l'alfabetizzazione finanziaria non facciano prevalerne cuori il panico. Se lo programma intero avete perso, si troverà sul sito, non nell'aria, e qui, per rima e tempo, vada il traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Due due di denari. Siamo veramente commosse. Beh, mi fa molto piacere, naturalmente. Lo scopo mio è avere ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici felici dei miei versi. E quindi, come sai, io quando amor, ma anche denar, mi ditta dentro, così compongo. Sei incontenibile. Volevo segnalare una cosa alle nostre due ospiti: alfabetizzazione finanziaria effettivamente è un endecasillabo. Quindi ve lo dico così, non so, magari potete giocarvela a Natale con i parenti. Mi immagino che sul portale forse non sia la prima informazione da fornire. Infatti, Anna Maria Lusardi, allora, il portale dell'educazione finanziaria, con questa attività di coordinamento che da lì dovrebbe essere appunto gestita. Come lo state disegnando? Che cosa può dirci fino a questo momento? È naturalmente ancora un momento piuttosto prematuro, però qualche indicazione possiamo averla, in anteprima mondiale, direi. No, grazie, innanzitutto grazie di questa poesia che abbiamo apprezzato moltissimo. Prego. E il portale è diciamo un po' il primo output di questo comitato e vuole essere un'iniziativa per tutti. L'abbiamo organizzato un po' secondo i cicli di vita, quindi ognuno può ritrovarsi su questo portale, ed è un portale sia di informazione ma anche un po' di educazione finanziaria, quindi il portale in sé può essere un punto di riferimento per chi vuole acquisire un po' queste conoscenze di base. Vogliamo renderlo disponibile al più presto possibile, ma chiaramente partiamo con la prima fase, sarà molto semplice, e poi si potrà aggiungere, e soprattutto spero diventerà poi un modo di coordinare e di lavorare insieme a tutti quelli che ci vogliono aiutare, e spero che sia anche un modo per dialogare. Noi vogliamo raccontare su questo portale le storie delle persone e vogliamo raccontare come la finanza sia importante e ascoltare a nostra volta le loro storie. Mi piaceva quello che si diceva prima della lingua da usare. Io penso che la finanza sia una lingua che dobbiamo parlare e che dobbiamo conoscere, ma al tempo stesso questa lingua deve essere semplificata in modo tale che possiamo capirci quando parliamo di finanza. È un tema importante, e il linguaggio che noi useremo su questo portale è proprio il linguaggio della finanza semplice, che a mio avviso è il linguaggio che si dovrebbe parlare. C'è, secondo me, ma lo dico perché appunto sto scorrendo i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori, i vari sms, una sorta di doppio gap che noi dobbiamo superare. Da una parte mi viene da dire, ma forse estendo il mio caso, c'è un po' di debolezza iniziale proprio anche nell'aritmetica, cioè alle volte non si considerano delle cose elementari, ancora prima che la finanza, insomma, la promessa di un rendimento in doppia cifra in questi anni, ma dovrebbe quantomeno far sorgere qualche prudenza in più. Non è detto che non possa essere garantito, ma ancora settimana scorsa in una puntata una signora ci segnalava un'agenzia immobiliare che prometteva rendimenti del 10% e più. Ora, davvero coraggiosa, ecco, questa agenzia immobiliare. Ma poi, oltre a questa preparazione di base, c'è una sorta di pudore, quasi, per tutti noi, quando si è in banca, davanti al consulente, o anche solo davanti al computer, perché qualcuno preferisce anche il fai da te, si ha quasi timore di dire: ma io non ho esattamente capito che cosa sto, dove sto investendo o dove mi sto indebitando, per quanta parte mi sto indebitando. Non trovate che questo sia un limite che soprattutto il portale dovrà sforzarsi di muovere, perché altrimenti le ottime iniziative poi restano frenate proprio da questi limiti precedenti? Magda Bianco, sì. Assolutamente sì, in realtà cominciare a parlare tanto di questo tema ci aiuta da un lato a rendere disponibili tutti noi a fare qualche primo passaggio sulle competenze di base, ma noi non dobbiamo diventare dei grandi esperti di finanza, naturalmente, ci bastano quelle, ci basta essere consapevoli che siamo tutti appunto un po' fragili su questo fronte, e quindi abbiamo assolutamente il diritto di chiedere, chiedere, chiedere e non firmare niente se non capiamo, chiedere di farci capire bene che cosa stiamo sottoscrivendo, che scelte stiamo facendo, imparare a confrontare quello che ci viene offerto, quindi vedere una prima cosa e magari andare a chiedere a qualcun altro. E poi nell'evoluzione delle nostre scelte imparare anche a chiedere dei consigli e a sapere che se devo chiedere un consiglio un po' più articolato in termini per esempio di investimento, lì devo essere un po' disponibile a spiegare le mie caratteristiche, i miei obiettivi, cosa voglio fare, quindi a rivelare una serie di cose che sono poi utili per darci il consiglio giusto rispetto alle mie scelte finanziarie di medio periodo. Ci aggiungo anche che dobbiamo essere disposti qualche volta anche a pagarla questa consulenza, perché noi abbiamo ancora un po' un retaggio del passato, di quando si andava in banca, si sottoscriveva il mutuo e il bot e la consulenza naturalmente del bancario terminava lì e quindi non andava remunerata. Oggi abbiamo un mondo completamente stravolto anche da questo punto di vista. Per tutto quello che ci piace ottenere, i servizi li paghiamo in ogni settore, quindi anche quello è un tema, insomma, è giusto pagarlo. Esatto. La professoressa Lusardi voleva dirci ancora una cosa sul punto. Volevo dirvi che ad esempio sul portale metteremo queste semplici regole che riassumono un po' a quello che ha detto Magda adesso. Una delle fra queste regole abbiamo messo: informati bene, confronta sempre più prodotti, non firmare ciò che non hai compreso, parlando del pudore, esatto, che lei diceva, e alla fine anche questo: più guadagni, più rischi. Quindi il guadagno alto, il 10%, se è vero che ci sarà, è collegato a grande rischio. E quindi bisogna essere consapevoli anche di questo. E quindi basta chiedere in banca quanto mi dai, perché è un approccio sbagliato per la gestione del proprio risparmio. E soprattutto senza chiedere, come diceva Magda Bianco, ma sì, ma che cosa ne vuoi fare? Cioè, qual è la prospettiva del tuo investimento? Anche questo lo ripetiamo spesso, due, certo, di denari, è un atteggiamento importante per capire come posizionarsi. Professoressa Lusardi, io l'ultima domanda la faccio a lei, perché poi riscappa per Washington, chissà quando la riacciuffiamo. Abbiamo 20 secondi, ma è contenta di fare questo lavoro, di essere qui in Italia con questa frequenza, sì, jet lag che la sta devastando, ma la vediamo benissimo? No, sono contenta e sono molto ottimista. Voglio dirvi che al primo incontro che abbiamo fatto a Roma ho conosciuto il ministro Padoan e avevo chiesto al ministro Padoan di abitare da loro, di abitare al MEF, e sono molto contenta di questo perché loro sono bravissimi, sono estremamente competenti, lavorano anche più di me, mm-hmm, e quindi è un'ottima collaborazione. Abbiamo obiettivi molto importanti, molto ambiziosi forse. Sicuramente molto ambiziosi, e li perseguiamo con molto ottimismo. Ci vediamo tra un paio di mesi, la riaspettiamo qui a Deus de Denari insieme a Magda Bianco, che da Roma la accompagnerà senz'altro. Grazie ad entrambe e buon lavoro. Grazie a voi. Caro Mauro, noi ci rivediamo domani, Deborah. Ah sì, ma anche tra due secondi come sempre. Buona giornata a tutti, a presto.